Compran. Que tengo de tenga de pollo, tengo de verduras y tengo de jamón con queso. Esto jamón con queso. Yo quiero. ¿Cuánto cuesta? Capitolo 4. Italiani. 10 ottobre 2018. Giardino incantato. Sono ormai alcuni giorni che ho cominciato a lavorare con un italiano. Lo conosco da quando sono arrivata qui. Lo si vede sempre passare con la sua canasta, vendendo pane fresco e profumato, e cornetti al cioccolato e alcune pizzette deliziose con le quali facevo spesso colazione. È un uomo burbero, dai denti rovinati dalle 1000 sigarette al giorno. Sul braccio un paio di tatuaggi da galeotto, di quelli sbiaditi, da una vita passata troppo in fretta. Italiani che fuggono, che negli anni 80 e 90 vivevano immersi nell'eroina, nell'alcol e negli psicofarmaci, persi lungo le strade delle loro città natali e rifiutati perché ormai erano diventati un problema e una preoccupazione costante per la famiglia. Mi raccontano di come sia stato proprio l'arrivo in questo piccolo villaggio di pescatori che ha cambiato loro la vita. Una vita che sarebbe stata persa ad un passo dalla morte o dal carcere se restavano in Italia. Quando lavoro con Vito, nel suo piccolo laboratorio con cucina e tavolini per i clienti, mi sembra di sottopormi ad ore ed ore di terapia dallo psicologo. Io, in cucina, amo inventare e cambiare le ricette secondo l'umore del giorno, il tempo atmosferico e alle volte secondo il colore dei pomodori. Lui, invece, mi spiega in maniera maniacale il procedimento per fare la salsa al ragù esattamente come la faceva sua nonna. Un giorno, che mi aveva lasciato da sola in cucina, ho pensato di fare le cose più velocemente, mettendo le verdure per il soffritto nel frullatore. Carote, cipolla, sedano, tutto perfettamente tritato. Mi sembrava una soluzione geniale. Ma a Vito non è piaciuta per niente. Si è fumato 4 sigarette una dietro l'altra mentre cercava di sbollire la sua rabbia. Da quel giorno mi tiene costantemente sotto controllo. Non gli piace quando le cose gli risultano imperfette. Come se gli si scombinasse il puzzle che ha nella mente. Lo stesso che gli fa cambiare idea una o anche due, tre volte al giorno. Accettare in silenzio i suoi cambi d'umore. In fondo, è quello che ho imparato a fare bene nella mia lunga storia da moglie quasi perfetta. Rimanere a testa bassa mentre friggo le melanzane per cucinare una parmigiana, mentre lui si lamenta costantemente di come va il mondo e di come i prezzi aumentano. E io mi mordo la lingua e non ho voglia di fare polemica. Sarò come tu mi vuoi, penso, mentre lui sembra posseduto dal diavolo della rabbia, quella che si è portato dietro quando è scappato dall'Italia e che non ha ancora digerito, nonostante tutti gli anni vissuti qui accanto al mare. In fondo, siamo delle aquile, che pensano di essere delle galline, nate in un pollaio guardando i rapaci volare sopra le nostre teste, sperando costantemente di essere un giorno proprio come loro. La canna fumaria sta prima dell'arcata, sai, no? Come funziona? No, come funziona? Praticamente l'arcata butta dentro l'aria e prima dell'arcata c'è la canna fumaria che... Sì, claro, perché sennò ti arriva tutto fuori. Questa è già la presa. 18 ottobre 2018. Giardino incantato. Arrivano come scoiattoli. Montano una grande tenda verde nel giardino, modello familiare. Li ascolto parlare. Sono tutti italiani. Come la vecchia zitella che ama solo i gatti, guardo con circospezione i loro movimenti. Ma si presenta alla mia porta Pietro, un cespuglio di dread biondi, magrissimo, con giganti occhi azzurri. Mi offri un caffè? Lo guardo nei suoi movimenti nervosi, tipici di chi ha vissuto gli ultimi mesi nel tempo accelerato del vecchio mondo. In 10 minuti mi ha già raccontato di tutti i suoi successi e delle sue innumerevoli capacità. E che lui è il primo a svegliarsi all'alba per rastrellare la spiaggia e controllare che tutto sia in ordine prima che arrivino i vacanzieri. Qui, nel paradiso, ci viene solo per poco tempo, per rilassarsi e per godersi i soldi che ha guadagnato, sudando senza un giorno di riposo per tutta l'estate. Stiamo cucinando la terra. Perché? Perché la terra si secca. Perché ora sta moccata la terra che tiene fuori, ma solo. Mentre beviamo il caffè, mi dice che solo in Italia si trova il migliore espresso del mondo. E che i formaggi più buoni, il prosciutto, la mortadella, il pesto, la pizza, e tutti i prodotti e l'unica cucina migliore del mondo, si possono trovare solo in Italia. Di pensar che è stato encerrado. Basta dejar pronto de quererme. Quando poi comincia a raccontarmi del quale sia secondo lui il migliore campionato di calcio del mondo, mi sento catapultata nel dialogo tra Claudio Bisio e Diego Batantuono, quando si incontrano nel film Puerto Escondido. Però la puerta non è la culpabile. Già. Quanti italiani hanno sognato di vivere una vita diversa, guardando quella videocassetta affittata un sabato sera di pizza in casa con gli amici, chiedendoci se davvero da qualche parte del mondo si poteva vivere una vita così, semplice, fatta di pochi bisogni e pochi consumi, il necessario per vivere, mangiare, vestirsi ed avere dei vizi. Sperando nel corso degli anni che arrivasse anche per noi quel colpo di pistola che cambia la vita al Mario Tozzi della storia. Aspettando pazienti il nostro turno, come si fa alle poste, quando i pensionati si mettono in coda al mattino presto, il giorno che arriva la pensione. Ci hanno illuso la mia generazione, dicendoci che avremmo dovuto sopportare un piccolo tempo a capochino a lavorare per poi avere il premio di una pensione mensile, per poter andare sulla costa del Pacifico a guardar passare le balene, scendendo dalla nave da crociera indossando un cappello di paglia e una camicia a fiori. Vieni, facciamo un Io quiero una chela más, carnal. Tu? I miei genitori avevano il sogno di viaggiare assieme, con il grande camper che avevano appena comprato quando mia madre è andata in pensione. Andare per le strade d'Europa, nelle città d'arte. Magari arrivare fino al profondo nord e godere dell'aurora boreale. E poi di nuovo giù al caldo, al mare delle spiagge in Grecia. Alla ricerca di una nuova giovinezza. Quella che i miei genitori avevano perduto nel crescere i figli e nel tenere unita una famiglia. Però i medici ci hanno detto un giorno che lei non sarebbe arrivata nemmeno alle feste della prossima Pasqua, consumata da un tumore che era cresciuto silenzioso nel corso degli anni e per il quale non c'era niente da fare. Ci hanno consigliato di fare l'unica cosa possibile, stare assieme, tutti i giorni che mia madre ancora aveva da vivere. Il tempo ci insegna a guardare i nostri genitori come delle persone. Non più come quegli eroi che idealizzavamo da bambini, ma come uomini e donne reali, con desideri e sogni, con voglie e malumori, che sbagliano, e sbagliano spesso, con una vita che li ha fatti soffrire, umiliati e costretti a fare scelte che non desideravano davvero. A guardare le loro catene di donne sottomesse al patriarcato, e di uomini che non sanno abbracciare i propri figli, a perdonarli per i loro errori, dicendo loro grazie per tutto quello che ci hanno insegnato, e poi lasciarli liberi di andare. È ora di chiudere gli armadi, che la morte la posso sentire, sta salendo le scale, e presto busserà alla sua porta.